fossi yo, viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Quanti sono 50 anni per una donna? Non lo so, me lo voglio chiedere questa mattina. Io vi posso dire che per l'uomo, per me almeno, sono stati una festa, una vera festa, senza retoriche. Ah, volete mettere con i tristanzuoli 40 anni, il primo meriggiare della propria esistenza, il rimpianto dei 30 anni, gli anta, cominciano a ingrigire i capelli, è una fase di grande decadenza. Poi esplodono i 50, e 50 per un essere umano di sesso maschile, vi parlo della mia esperienza e dei pochi amici dai quali ho qualche confidenza, è stato veramente un ritorno alla vita. Ci si rende conto improvvisamente che si è già morti, si appartiene a un'altra epoca, a un'altra esistenza, tutti sono più vecchi. In qualunque luogo in cui tu vada trovi soltanto dei novellini, delle persone più giovani di te, e quindi c'è questo senso di dissennatezza e di intrebitezza data dal fatto che ci si sente già da un'altra parte, e quindi la vita può essere aggredita, può essere presa a morsi, può essere presa a calci, e quindi ogni momento potrebbe essere l'ultimo, ma non è così naturalmente, abbiamo davanti ancora un'esistenza lunghissima. Ma 50 anni non so perché danno ottimismo, almeno a un uomo. Per una donna forse è leggermente diverso. Le poche e rare amiche dalle quali ho confidenza mi parlano di un grande pregiudizio che graverebbe sulle donne cinquantenni, qualcosa legato al loro aspetto fisiologico, al loro orologio biologico, qualcosa che riguarda le loro mucose, ma non tanto il fulgore della loro esistenza. Beh, colte e colpite da questa condanna, tendono a volte le cinquantenni a intristirsi, a incupirsi. Beh, io questa mattina invece le chiamo tutte raccolta. Cinquantenni, dove siete? Fatevi sentire, raccontatevi. 800 24 00 24. Ciao Gianluca, hai parlato l'altro giorno di vecchietti, no? E dici che sei vecchio tu che hai 54 anni. Io ne ho 51 e sto insieme a un uomo da 5 anni che ha 22 anni meno di me. Io pensavo che stessi insieme a me per interesse, ma siccome sono piena di debiti, allora sicuramente non stai insieme a me per interesse. Pensavo che stessi insieme per cose sessuali, però ti assicuro che non sono assolutamente brava da quel lato lì. E allora certe volte mi chiedo, ma cosa gli do? E mi do delle risposte, ma non sono mai plausibili, mai. Questo è un altro punto che mi sento dire spesso da amiche, conoscenti, cinquantenni. Chissà perché mi vengono dietro i ragazzini, chissà perché riesco a attirare persone che mai avrei sperato di portarmi al seguito nel fulgore, nel pieno dei miei splendidi 40 anni. Adesso che ne ho 50, non so perché, sono interessanti. E questo fa parte un po' del mesto complesso della nave scuola che potrebbe avere una cinquantenne. Non è soltanto questo. Vorrei capire qual è il meccanismo singolare per cui questa porzione di umanità femminile è forse quella meno celebrata. Sui 40 anni si è scritto tanto, tanto si parla di consolatorio, di recupero, di iniezioni di certezza quotidiana per le quarantenni. Le cinquantenni è un po' come se fossero in un cono d'ombra, poi sono le donne che maggiormente hanno in mano le leve del potere, quando le donne lo hanno il controllo delle loro situazioni, quando le donne lo hanno una sorta di pacata e filosofica rassegnazione su quello che la vita può dare a un essere umano, quando riescono ad avere questo atteggiamento. Ciao Gianluca, ti volevo dire che purtroppo per me la singoltudine è imposta dopo 50 anni, perché io in realtà tra un fidanzato e l'altro avevo sempre trovato qualcuno, invece adesso praticamente dopo 50 anni non mi guarda proprio più nessuno, perciò io ritengo che sia un fatto puramente legato alla specie. Aveva ragione Schopenhauer, noi siamo comandati dalla specie, quindi non c'entra niente l'amore, la passione, cioè è un fatto puramente ormonale. Una volta che cade il discorso ormonale, cade tutto. Sarà una riflessione amara, ma io l'ho provato scientificamente. Può essere che sia tutto legato agli ormoni. Può essere che il vero problema di una cinquantenne sia quello del suo endometrio perduto. Può essere che questo pauroso e terrificante pregiudizio della medicalizzazione del climaterio femminile, quasi se fosse una zona senza ritorno, fosse un momento pregno di irrevocabili decisioni in cui la donna non è più capace a svolgere la sua funzione riproduttrice e quindi di conseguenza tutte le sue funzioni relazionali, emozionali, fantasiose devono essere messe in un cantuccino. Esattamente questo che sente una cinquantenne. 800 24 0024. Se poi una resta single dopo i 50 e ancor più dopo i 60, sono pochi gli amici e persino le amiche che non guardino con perplessità e malcelato scetticismo i tentativi della tardona di ritrovarsi un fidanzato. Non sono moltissime le neo-sessantenni che dicono chiaro e tondo di non voler fare le nonne a tempo pieno, che vogliono continuare a occuparsi di se stesse e, se singole, che non si ritengono finite come donne e rivendicano una seconda chance sentimentale o anche solo sessuale. Abbiamo già Giulia al telefono. Giulia, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Io ho 54 anni. E devo dire che vivo benissimo la mia età. Ho sentito di più, quando ho compiuto 30 anni, una specie di stacco con forse la prima giovinezza. Ero già mamma di un bambino di 8 e mi ricordo che quando ho compiuto i 30 mi aveva fatto molta impressione. Poi compiere 40 e 50 successivamente non mi ha dato nessuna particolare emozione. L'unica cosa è che per me i 50 anni hanno corrisposto proprio a un cambio totale di vita, perché il figlio se n'è andato lontano, per cui non solo se n'è andato di casa ma è andato anche lontano, e per motivi diciamo di salute ho smesso anche di lavorare, per cui mi sono ritrovata senza lavoro, senza famiglia. Ho un compagno con cui divido la vita da tanto tempo, però non viviamo assieme, facciamo gli eterni fidanzati, e io adesso non riesco a fare tutte le cose che non facevo prima. Io mi sento giovane, anzi a volte vedo delle trentenni, delle quarantenni che mi sembrano più vecchie di me, pur essendo diciamo naturale, ecco, non è che mi sento giovane perché ho ricorso a particolari cambiamenti fisici, ecco, mentre dimostro di me. Ho una nipotina, sono nonna, quando sono insieme a lei mi prendono per la mamma. Perciò è come se avessi ricominciato una nuova vita, ma che mi dà tanta gioia. Quindi, per capire, è esattamente quello che io riportavo alla mia esperienza personale, che i 50 anni in realtà sono finalmente un momento di miglioramento. Non lo dico per retorica, non lo dico perché voglio consolare me stesso, consolare nessuno, ma a 40 anni si segnano sul taccuino quotidiano quelli che sono i punti in meno rispetto a una giovinezza che ci si sente allontanare. A 50 c'è la meraviglia e la sorpresa che in realtà tutto può ricominciare. Sì, certo, può ricominciare. Poi, scusa, si parla tanto di allungamento della vita. Se cominciamo a sentirci vecchi a 50 anni, cosa passiamo? Metà della vita da vecchi? Beh, non è che siamo proprio giovanini, No, ma no, certo, io non è che mi sento giovane, non mi voglio paragonare a mio figlio, io ho un figlio di 32, chiaramente lo vedo più giovane. Però forse è sbagliato pensare che c'è una vita sola, forse sono più le vite che abbiamo e ogni tappa rappresenta una nuova. Certo, quando penso avevo 20 anni, quando ne avevo anche 30, non so, mi sembra quasi la vita di un'altra. Io vivo benissimo quell'attuale e so che ne avrò davanti ancora tanta, perché voglio. Va bene, Giulia ci ha confermato allora un primo passo di certezza, o perlomeno di verifica, la tabula rasa dei 50 anni. A 50 anni ci si lascia dietro le spalle tutto ciò che aveva rappresentato pregiudizio, incertezza, rallentamento fino a quel momento. Flavia, d'accordo? Sì, sono pienamente d'accordo, buongiorno a tutti, anzi oggi compio felicemente 56 anni. Oh Flavia, mettiamoci d'accordo, questa non vuole essere la trasmissione della gloria dell'ospizio, sennò sembriamo i vecchietti che si fanno coraggio. Mi dica cose che non avrebbe mai detto a nessuno, così tiriamo un po' su. Io vivo felicemente una nuova vita, l'ho iniziata dopo i 50 anni e sono felicissima, cioè non mi sento assolutamente vecchietta, vivo una vita sotto tutti i punti di vista attiva, ecco. Il fatto che la donna a 50 anni abbia una sorta di irrevocabile blocco e fermo delle sue attività fisiologiche è realmente qualcosa che corrisponde a un'attività relazionale o questo pregiudizio medico riguardo il clinico, riguardo all'età fertile a donna che dovrebbe corrispondere anche alle sue espansioni sensuali o affettive? Assolutamente no, sono qui per negarlo nel modo più assoluto, cioè anche dal punto di vista, diciamo così, sessuale, anzi diciamo che quasi quasi è migliore. È meglio di prima. Perché è vissuta in una maniera diversa, è vissuta con più consapevolezza, con più maturità, senza la frenesia magari della gioventù, ecco. Allora, altro e secondo punto le metamorfosi delle cinquantenni, il primo lo abbiamo già detto, è la tavola rasa sul passato, secondo ci si accorge improvvisamente questa sorta di traguardo finale che veniva lungo paventato, di cui si leggeva, si parlava con i medici, si pigliano gli ormoni e ci si riempie di pillole e si teme il giorno fatidico in cui ci si sentirà meno donne, in realtà è l'apertura a una nuova maniera di essere donne. Cercare un uomo a 50 anni, internet. Personalmente, in un paio di anni di iscrizione a siti diversi, ho incrociato decine e decine di uomini, nessuno dei quali repellente o pericoloso, anzi. Potrei raggruppare questi personaggi in alcune tipologie fondamentali. I pescatori di trote sono in assoluto i più numerosi. Si iscrivono col deliberato proposito di contattare quante più donne possibili, senza fare alcuna selezione. Appena buttata la lenza, si tira su la prima che capita, la si pesa, si paga e si va a casa a farsela in padella. Quelli che a Itaca non ci vogliono andare. Sono i moderni Ulisse. Amano navigare, cercano davvero qualcuna, ma non vogliono trovarla. Da qualche parte spesso c'è pure una Penelope che aspetta. Allora via con le avventure. Calipso, Nausicaa, la maga Circe vanno tutte bene, purché siano attraenti e non rompano quando l'Ulisse di turno le lascia perdere e sparisce. Beh, devo dire che il compiacere, la sindrome del telecomando affettivo che ogni uomo vorrebbe portare nella propria fondina assieme al suo passaporto di impunità fa parte dei vantaggi dell'esperienza di una cinquantenne. Ora, questi consigli e queste riflessioni che abbiamo finora fatto sentire sono tratte da una sorta di Bibbia delle cinquantenni, Ricomincio da 50, edizioni Franco Angeli, della dottoressa Vallì Festini, che è una psicologa, è già stata docente di psicologia dinamica e dei gruppi all'Università di Padova. Vallì Festini, buongiorno. Buongiorno. L'abbiamo tenuta in ascolto delle prime reazioni delle nostre ascoltatrici. Come le è venuto di cominciare a occuparsi, visto che è un settore di umanità femminile così poco celebrato, delle cinquantenni? Ho iniziato 5 anni fa a fare un gruppo, diciamo, chiamiamolo neofemminista, perché avevo l'impressione... Devo dire che la parola mi fa venire qualche brivido, lo confesso subito. Così di donne, chiamiamolo, perché sì. In realtà senza quella contrapposizione uomo-donna degli anni 70, che poi anche allora era abbastanza parziale, perché avevo l'impressione che tutti i vantaggi che avevamo accumulato, la possibilità di lavorare, di essere indipendenti, di essere psicologicamente indipendenti dall'uomo, poi fossero stati annullati dal processo di invecchiamento, cioè quando la donna arriva a 50 anni e viene vista come vecchia, non ha più possibilità di rapporti affettivi. Ecco, questo è un po' lo stereotipo, diciamo. Che poi anche perché il cinquantenne comincia a guardare in basso e devo dire che è anche un buon articoletto sul mercato, visto che le generazioni più giovani sono molto affaticate, affannate nel trovarsi uno status, una collocazione professionale, insomma, per guadagnarsi la vita. La cinquantenne in realtà non ha una corrispondente felice fortuna sentimentale nei riguardi del mondo maschile. L'ha avuta in passato, secondo me le cose stanno un po' cambiando, come dimostrato da alcune telefonate. Cioè la cinquantenne ha una serie di vantaggi, in primo luogo le cose che ha realizzato nella vita le ha realizzate, le cose che non ha realizzato ormai sono accantonate ed è diciamo più tranquilla in generale. E dal punto di vista, dato che si è parlato del problema fisiologico, io direi che è un po' il contrario di quello che alcune persone hanno detto, nel senso che il fatto di non essere più fertili è un vantaggio nel rapporto sessuale perché non c'è più il problema degli anticoncezionali. Però mi darà atto, Valli Festini, questa storia della menopausa, del prolungamento dell'età fertile, degli ormoni, di tutti i medicamenti, ha un po' creato una sorta di barriera medico-clinica in realtà molto poco esistente, che addirittura ha condizionato psicologicamente. Conosco persone che si sono sentite le vampe anche senza che necessariamente avessero una situazione per averle, proprio perché sapevano che a quell'età dovevano arrivare le vampe, quindi c'ho le vampe. Esatto, ecco, poi è vero che dal punto di vista biologico gli uomini funzionano in modo diverso, hanno questo drive fisiologico ed è anche vero, non possiamo negarlo, che una ventenne possa essere più attraente di una cinquantenne, però insomma va detto che se il processo di invecchiamento procede negli anni, procede per le donne, procede anche per gli uomini. E poi va anche detto che in un rapporto non esiste solo il rapporto sessuale, esiste anche il rapporto affettivo, il rapporto culturale, e in questo senso una cinquantenne effettivamente può avere dei vantaggi. Ecco, Valli Festini, mi devo interrompere per un istante per dare la linea alle informazioni della borsa. Prego di chiamare all'800 24 00 24 per tutte le cinquantenne in ascolto. Rispetto alla particolare maggiore avvenenza delle generazioni più giovani, direi che in realtà oggi l'uso indiscriminato del polimero artificiale ha creato anche in questo caso un senso di giustizia per le cinquantenni che ancora hanno rispetto della propria integrità carnale. Melog 2.0. I poveri cristi sarebbero i migliori perché colti, gentili e interessanti, ma dopo un minimo di frequentazione realizzi che non hanno i quattrini neppure per offrire una pizza, perché incastrati con una e spesso due ex mogli e due o tre figli. Stipendi e pensioni vengono fagocitati quasi totalmente e non c'è più trippa per i gatti. Anzi, è la donna che deve mettere mano al portafoglio per offrire cene, per pagare qualche viaggetto, tutto con estrema discrezione, perché di solito il tipo è molto avvilito e pieno di dignitoso imbarazzo. Valli Festini ha scritto Ricomincio da 50, edizioni Franco Angelo, a cui abbiamo tratto questa terrificante scheda. Valli Festini, ma è così difficile per una cinquantenne trovare persone decenti? La cinquantenne che trova uomini sfigatissimi, oberati dal mantenimento probabilmente di altri cinquantenni con cui hanno fatto figli e fatto famiglia in altri tempi, hanno questo senso di croce rossine sentimentali di questi residui umani? Nel libro abbiamo confrontato esperienze diverse, questa citata è un'esperienza, ci sono altre esperienze più positive. Incontrare la persona giusta non è facile, né a 50 anni né a 30 anni. Direi che forse è ancora più difficile a 30 anni perché le aspettative, le cose da condividere sono molte di più. Una delle vostre interlocutrici ha toccato un punto interessante, quello della non convivenza, nel senso che mentre a 20 anni è necessario convivere per fare una famiglia, avere dei figli, a 50 anni è possibile scegliere, cioè si può convivere, si può non convivere per esempio, e il rapporto affettivo viene ridotto all'essenziale, no? In questo senso può anche essere più facile, però naturalmente incontrare una persona in cui ci si trova bene, che non abbia un passato che sia eccessivamente pesante, perché questo è il problema delle cinquantenni ed oltre. Sì, di necessariamente avere spalle per raccogliere i lacrimosi passati degli uomini che hanno accanto. Anche perché, guardi, domani continueremo questo discorso parlando di una generazione ancora precedente, le donne che vanno dai 30 ai 40 anni, che in questo momento, ma parlo per osservazione diretta, sono quelle che vivono nell'ansia di dover per forza concludere un rapporto stabile, sono alla ricerca disperata di un uomo decente da potersi prendere, da tenere vicino, con cui magari fare dei figli prima che l'orologio biologico dia loro l'alt definitivo. Le cinquantenne hanno già passato questa fase, ma a quale tipologia maschile, diciamo alle nostre latitudini, alla nostra società, si rivolgono preferibilmente? A chi si accompagna la cinquantenne? Si accompagnano a persone coetanee o con qualche anno in più, perché sappiamo che gli uomini prediligono le donne con qualche anno in meno, che siano separati. I single è molto più difficile che riescano ad avere un rapporto felice se non hanno mai avuto un rapporto importante prima dei 50 anni, ma ci sono molti divorziati. Con i vedovi è un punto di domanda, nel senso che le esperienze del mio gruppo sono abbastanza diverse. Nel senso che per alcune i vedovi sono molto difficili da recuperare, perché sono rimasti legati a un'immagine che, per di più, essendo assente, acquisisce delle caratteristiche ideali. Sembra di vedere un film di Verdone di qualche anno fa, quando porta la povera nuova moglie, moglie. Di fronte alla tomba della prima moglie, e improvvisamente finirà tragicamente questo film. Quindi c'è questa icona immarcescibile della prima moglie con cui bisogna convivere. Sentiamo Maria Giovanna. Maria Giovanna, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao Gianluca. 50 anni come una sorta di liberazione. Liberata da cosa? Da quali zavorre? Ma liberata dalle zavorre anche quotidiane, quindi è un modo diverso di vedere le cose. Liberata magari anche... cioè io negli ultimi anni ho fatto delle scelte... anche definitive, cioè, no definitive, per carità, di definitivo non c'è mai nulla. Ho fatto delle scelte risolutive, ho cambiato lavoro, ho fatto delle cose che magari 10 anni fa non avrei fatto, quindi con una maturità, con una leggerezza. Quindi si prende coraggio a 50 anni? Si prende coraggio e ci si libera, esatto, ci si sente, sì, forse come dicevi prima, più vicini al traguardo, ci si sente più vicini all'essenziale, come diceva giustamente prima l'ospite intervistato telefonicamente, che non ho capito chi sia, comunque diceva delle cose estremamente interessanti. La dottoressa Valli Festini è una psicologa, ha scritto questo libro sulle cinquantenni, e quindi è la nostra esperta in campo, avendone viste molte. Esatto, dal mio punto di vista elimini tutto, almeno quello che puoi eliminare di superfluo, per cui ti tieni quello che è fondamentalmente... Quindi ci si fa anche meno scrupoli nelle relazioni con gli uomini? Credo ci si faccia meno, ecco, questo per me è un discorso abbastanza particolare, nel senso che io con gli uomini ho un rapporto sempre molto diretto, sempre molto di fratellanza, vivo in una situazione abbastanza stabile, non ho in questo momento problemi di solitudine, quindi non vivo da cinquantenne single, quindi non posso in questo momento esprimere delle opinioni in relazione a questo tipo di cosa, però il rapporto con gli uomini comunque è molto più diretto, è molto più libero, cioè non so, io l'ho sempre avuto molto libero, ho vissuto in una famiglia di maschi, sono cresciuta in mezzo ai maschi. Beh, anche in un rapporto stabile, secondo me una cinquantenne abbandona tutte quelle reticenze o quelle maniere di dover scendere a compromessi per tenere insieme una coppia. Alla fine a 50 anni una può anche permettersi di dire se così va bene, se no peggio per te. No, sono assolutamente d'accordo, infatti è tutto molto, dal mio punto di vista, per quanto mi riguarda, sia per quanto riguarda le relazioni affettive che le relazioni professionali, è tutto molto più reale, tutto molto più vero. Fabrizio da Roma, sentiamo un uomo sui 50 anni, delle donne naturalmente. Eh beh, ovvio, ma io volevo dare un consiglio. Lei quanti anni ha, Fabrizio? 50. 50, perfetto. 50. Quindi sono le sue coetanee, le sue compagne di scuola, le compagne di università. Alcune sono ancora meravigliose, però sono meravigliose. Infatti è questo che volevo dire, nel senso che l'uomo, pur essendo più semplice a livello psicologico della donna, ha bisogno di rassicurazioni. E secondo me anche non è vero il fatto che a 50 anni, sì, se a 50 anni cerchiamo la ventenne, vogliamo la ventenne, non vogliamo la cinquantenne che a finge di averne 20, e questa è la cosa. Io trovo che le donne di 50 anni che hanno più successo con gli uomini loro coetanei sono quelle che sono rimaste come sono, anche il capello bianco, la ruga in più intorno all'occhio, così, quello non spaventa, perché quello, anzi, tutto sommato, tutto, in un certo senso io lo trovo più rassicurante. Sul capello bianco, ma a mio personalissimo parere, ho qualche pregiudizio, confesso, a me l'ostentazione del grigiore delle chiome femminili non entusiasma, però sono punti di vista, devo dire la verità, ma per un mio preconcetto e pregiudizio sulla ruga non ho nulla in contrario, io ho una sorta di contatore interno per gli innesti artificiali, non mi piacciono più, anzi, se va avanti nel tempo più li trovo orrendi, quindi una cinquantenne che riesce a resistere al botulino e alle modificazioni chirurgiche, devo dire, al suo fascino rispetto a una ventenne che ormai è più di plastica che di carne. Però c'è un D'accordo? Detto a Roma, non so se lo conoscete, che è quello dietro museo davanti, dietro liceo davanti museo. Sì, è molto crudele però questo detto. Però è vero, cioè nel senso tu ti spaventi perché ti trovi davanti, vedi una donna, dici che carina quella, poi ti avvicini e vedi che poi c'è sopra appunto chirurgia plastica, lampade solari a non finire, roba di questo genere. Magari anche, che ne so, l'ostentazione di un abbigliamento che non è più consono, secondo me, anche un certo tipo di fisico. Quello spaventa moltissimo e forse le donne dovrebbero fare un po' più pace con se stesse, anche gli uomini, per carità del cielo, perché anche noi maschietti non è che scherziamo su queste io cose. Io penso noi la facciamo molto meno pace con noi stessi, ahimè, ma la natura con noi è stata crudele e ci ha imposto delle autonomie incontrollabili con le quali dobbiamo fare i conti. Franca, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo dire, a me sembra un po' tragica la presentazione. Lei quanti anni ha, Franca? 50. Io ho 50. E perché fa la voce da vecchia, scusi? Ma perché si sente male il telefono, forse. No, c'è una mestizia che va oltre la sua età anagrafica, quindi faccia una voce più squillante. No, faccia la voce. Non si prende bene qui con questo cellulare. No, non bleffi. No, lei è giù di tono. No, faccia la voce da cinquantenne, non da settantenne. Avanti, vada avanti. No, ecco, adesso già va meglio. Oddio. E dico no, che per le cinquantenne, almeno come è stato per me, ma è la stessa cosa che per una trentenne, cioè questione di carattere, di cultura, di modo di presentarsi, perché ti sai presentare bene a 30, 40, 50 anni, vivi la vita bene, con entusiasmo, a 30, 40, 50 anni, c'è chi fa una tragedia pure di una gravidanza a 30 anni, quando... E chi con la menopausa a 50, quando è un fatto fisiologico, no? È un momento per il quale momento non c'è bisogno neanche della tosse, della terapia sostitutiva ormonale. Io sono medico. Questa è una cosa lei è medico? Io sono medico, sì, e lo dico sempre alle mie assistite. E non trova ci sia un accanimento, ci sia stato un accanimento di medicalizzazione della menopausa? Bravissimo, c'è un accanimento, sì. Allora, resti in linea, guardi, questo è un argomento interessante. No, resti in linea, non vorrei Nicoletta carbonizzarmi, però è importante che tocchiamo anche questo punto, naturalmente da un'ottica che non è quella propriamente clinica. Melog 2.0. Hai più di 50 anni e a volte ti senti sfiduciata? Invecchiare ti angoscia? Ti capita di pensare al passato con rimpianto? Devi occuparti di genitori anziani e i tuoi figli sono ormai autonomi? Rimpiangi di non aver avuto figli? Sei reduce da una dolorosa separazione? Pensi che sia impossibile rianimare il tuo matrimonio longevo? Ritieni che la vita affettiva e quella lavorativa siano finite dopo i 50 anni? A volte non riesci a vedere il tuo futuro in modo positivo? Beh, coraggio! Mi ero interrotto bruscamente con l'ascoltatrice Franca, mi pare. Sì, è ancora in linea? Sì, sono in linea. Franca, cinquantenne, che ha requisito voce squillante propria della sua verde età e anche medico. Sì, anche medico, da 25 anni. Ecco, no, mi interessava questa storia qua, senza entrare nei particolari clinici che mi annoiano moltissimo. No, ci sono degli studi, infatti, dove si è visto che fare la TOS, la terapia ormonale sostitutiva, non ripara dalle cardiopatie, non ripara dalla osteoporosi. Anzi, assolutamente. Sì, ma poi quello che non mi interessa, questo, di questo non me ne importa nulla. Io voglio sapere l'atteggiamento di quando le quasi cinquantenni vengono da lei e le chiedono la pillolina del mestro prolungato, qualcosa del genere. No, io le sconsiglio tranquillamente, perché sono state le amiche a consigliarglielo. Le dico, no, devo essere io. E poi dico io stessa. Sì, c'è un passaparola fra donne che sì, questa, sì, dico, non dovete questa necessità. Aver fiducia della vicina di casa, ma del vostro medico. Io stessa. No, lei tira acqua al suo mulino, però. E poi da studi che ci sono stati fatti, dico, le donne medico sono le uniche che non hanno mai fatto la terapia sostitutiva. Che cosa vi dice questo? Ah no, questo non è interessantissimo. Cioè le cinquantenni mediche, cioè le cinquantenni sì, sì. Che passano lo spartiacque del climaterio, non fanno mai le terapie perché non hanno tempo e hanno poca fiducia in queste? Perché ci sono poi grossi problemi per il tumore della mammella, devi stare a controllare. Vabbè, adesso questa anno è roba di Nicoletta Carbone, mi sta carbonizzando, quindi non no, posso. Io vabbè, ho un diktat che non devo toccare nulla di clinico, ma soltanto lambire gli aspetti sentimentali, passionali, sociali, psicologici al massimo. Quindi la saluto, Franca è andata via, quindi Geppi, la provincia di Monza. No, no, io non sono nella provincia di Monza, sono a Carimate, un bellissimo paese che adesso mi è passato davanti un serpentone che entrava nel golf. Vabbè. C'è un serpentone nel senso una biscia? Ma che una biscia? Questo è un serpente, era una cosa enorme, ho frenato spaventatissima, una cosa enorme. Quindi ha già delle allucinazioni tipiche della sua età? No, delle allucinazioni, lei e le signore dei capelli bianchi che non hanno fascino, che ha detto poco fa. No, a me non guardi, piacciono, devo dire. Beh, posso esprimere il mio parere estetico. Ecco, l'ostentazione dello sbiancamento tricologico mi dà ho un po' fastidio. Ho fatto la telefonata di contestazione. Allora, lei preferisce ognuno quelle finte che si sì tingono, si cosano, certo, e poi spatatan dietro liceo, davanti museo. No, guardi, no, dico, purché ci sia una crescita ben controllata. Da quando ho deciso di non arricchire più i parrucchieri con tinte, mesh e cose finte, ci ho guadagnato in parecchi torcicolli da parte di voi uomini, anche quelli più giovani di me. Sì, signora, guardi, ho espresso un mio suscettibile di ogni critica parere estetico. Non mi piacciono le donne con i capelli grigi, che posso farci? Vabbè, è un mio limite. Sempre mi è venuto da contestare più lo shock del serpentaccio che mi ha attraversato la strada. Ma non è quello, magari. Ma lo prenda come un segno profetico di buon augurio, scusi, perché dovrebbe portarle male? Ma non sono allucinazioni delle cinquantenni e di una quasi cinquantenni. Guardi che io vado per i 60, si figuri. Lo so. Talvolta in questo paradiso ci attraversa la strada gli scoiattoli, le protti, i conigli, i fagiani e le volpi. Stamattina è capitato un serpente. Ma lei dov'è? Scusi, nel giardino di Biancaneve? Dove sta? No, noi viviamo. Noi abitiamo a Carimate. È un piccolo paese, un piccolo paradiso della Brianza. Tutto per dire che lei ha i capelli bianchi e ne va fiera. Tutto per contestare il suo non mi piacciono i capelli bianchi. Ma scusi, non mi piacciono, è lecito dirlo. Chi ha gli occhi azzurri e porta benissimo il capello grigio color acciaio, anzi platino, sta benissimo. Comunque complimenti per sì, le vostre trasmissioni. Ne sono perfettamente convinto che a qualcuno piaccia, ognuno ha i suoi gusti. Io preferisco il capello tinto, ma guardi, è un limite. Luisa da Milano. Sì, buongiorno. Lei è molto depressa nel sentire persone che sentono in declino a 50 anni. Non l'ha detto sì nessuno ancora. Sono sì, tutte sì felici le cinquantenni. No, abbiamo colto un segmento di umanità femminile che è felice e siamo contenti. Io invece ho l'impressione che abbiano questo timore di questi 50 anni, come se a 50 anni ci fosse uno stop, un cambiamento necessario in negativo. Però non l'ha detto nessuno di chi ha testimoniato, però devo dire onestamente. Delle persone che hanno testimoniato il loro felice avere 50 anni mi sembrano tutte soddisfatte, contente. Non ho avuto questa impressione, cioè quantomeno ho avuto l'impressione di un'ansia, di un timore, insomma, dell'età che avanza. E lei invece come se la vede? E io invece me la vedo molto meglio, sono sempre stata molto dinamica, non ho mai saputo cosa fosse la menopausa, nel senso che sono andata avanti con le mestruazioni moltissimo. Ho un marito più giovane, viviamo in modo molto dinamico e quindi così non sento assolutamente questo limite, soprattutto. Vabbè, conferma il trend che abbiamo finora lambito. Valli Festini, ricordo, autrice di un libro, Ricomincio da 50, Franco Angeli. Come vede, il test della nostra trasmissione radiofonica, le telefonate rappresentano la media delle persone che chiamano, mi sembra che tutto sommato colga il senso dei 50 anni visti in maniera ottimistica. Mi sorprende perché io sono sempre pessimista. In realtà le donne non si fanno influenzare dai mass media e dalla pubblicità, perché il discorso è come ci sentiamo noi. O perlomeno non lo fanno dopo i 50 anni, diciamo così. In forma, mentre diciamo la pubblicità, adesso che le fotografie sono anche truccate con Photoshop, no? E quindi non c'è la minima ruga, non c'è la minima imperfezione, naturalmente non è che ci rendono molto felici, no? Questa immagine della donna giovanissima e perfetta, per cui diciamo che nonostante questa pressione dei mass media noi continuiamo ad accettarci. Infatti credo che sia molto importante quello che ha detto quell'uomo che ha telefonato, che è importante non artefarsi, no? È importante l'accettazione di ogni età. Scusi, ma il desiderio di non artefarsi, poi ci salutiamo che è finito il tempo, può corrispondere anche nell'ostentazione del capello bianco, che io trovo un po' esagerata, ma è un mio limite, ripeto. Lei come la pensa? Ma io personalmente, io ho più di 50 anni, sono oltre 60, sono sempre stata bionda e continuo a farmi bionda, non per coprire i capelli bianchi, ma perché fa parte della mia personalità. Io credo che ognuno, dipende un po' dall'età, a 50 anni ci si può tingere i capelli, a 70 incomincia a essere un po' troppo tardi, ecco. Purché non sia quel violetto azzurrino che in realtà fa tanta tristezza. Per esempio non amo gli uomini che si tingono, quando vedo per televisione... No, quelli sono orribili, sono d'accordo anch'io, fanno veramente schifo. Capello, certo. Liceo e faccia museo, ecco, trovo veramente che siano dei... Il rosso mogano alla Pippo Baudo, devo dire che è un po' fastidioso. Grazie, arrivederci, buoni cinquantenni, domani parleremo delle trentenni, parleremo di un uomo ad ogni costo, vedo che continuo a trattare l'argomento femminile, spero che il mio sforzo vi sia grato. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.